ragazzi del 99. Ritratto di una generazione a cavallo fra due secoli. Di Maria Piera Ceci. Li ho visti i ragazzi del 99. Andavano in prima linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera. Cantavano ancora. Anche in questa puntata partiamo dalle parole del generale Diaz, che ho trovato molto belle in questa immagine dei giovani che vanno al fronte cantando, che vanno dunque incontro alla morte cantando, forse anche grazie ad una buona dose di incoscienza tipica di quell'età, e che cantando sono anche tornati, almeno quei pochi che sono tornati. I ragazzi del 99 di 100 anni fa, che morivano per la patria sul Piave, che lasciarono famiglia, studio, molto spesso il lavoro della terra, una generazione che patì la guerra ma che era animata da forte passione patriottica, da forti ideali. Bevo il caffè che è acqua sporca, un caffè lungo come il Piave. Vi dico che a casa mamma ci abitua troppo bene. La speranza si è un poco usurata, ma si procede. Qua c'è anche il pericolo, tutti intorno attentano alla vita. Tanta paura e poca certezza. Io ho imparato a non pensare al peggio, che purtroppo è sempre in agguato. La vita in trincea è un po' dura, ma credo che non ci staremo un pezzo così, sepolti vivi. L'importante è che si salvi la pelle. Al resto ci si fa l'abitudine. Con tutto il cuore, con grande affetto, il vostro ragazzo. Oggi i nostri ragazzi del 99, grazie al cielo, e non ci stancheremo mai di ribadirlo, saranno forse meno tosti di allora, perché certo la prova del fronte a loro è stata risparmiata. Saranno forse meno abituati alle privazioni, alle sofferenze come quelle che sentiamo descritte in queste lettere accorate dal fronte. Ma oggi come allora di ideali ne hanno e come. Molto diversi, forse anche un pochino più difficili da descrivere e da comprendere per la nostra generazione, ma ne hanno e come. Sarebbe davvero superficiale da parte nostra dire che siamo davanti ad una generazione di rammolliti, come troppo spesso li liquidiamo su giornali, radio e TV. Ne parliamo quando sono vittime o carnefici in episodi di bullismo, quando sono protagonisti di brutti fatti di cronaca. Ma nelle scuole, negli oratori, nelle associazioni di volontariato, nelle palestre, è pieno di ragazzi con una forza di volontà che neanche ci immaginiamo. E allora prosegue oggi il viaggio di Radio 24 proprio in queste scuole, in queste associazioni, in queste palestre, per scovarli questi ragazzi e raccontarveli cosa leggono, cosa fanno, cosa pensano di noi. Oggi qui con noi in studio Gloria Ricciardi. Buongiorno Gloria. Buongiorno. Allora, Gloria è di Milano, frequenta l'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Carlo Porta, ho detto giusto? Giustissimo. Bene, un ottimo istituto tra l'altro, un ottimo istituto professionale milanese che sforna personale ottimamente qualificato in questo settore, quindi complimenti per la scelta. Grazie. Anche per te, partiamo da quello che ho visto sbirciando sulla tua pagina Facebook, 1433 amici, quanti social hai? 3, Facebook, Instagram e Skype. Quanto sono importanti per te i social? Poco, veramente poco. Cioè, non ci perdi tanto tempo? No, no, quasi, cioè minimo veramente. Mm-hmm. Quindi non è la prima cosa che fai al mattino quando ti svegli? Assolutamente no. Fantastica, neanche l'ultima che fai prima di andare a letto come molti tuoi coetanei? Assolutamente. Bene, di questi 1433 amici, quali sono veri amici? Io suppongo la maggior parte, cioè più che amici conoscenti. Certo, non tutti, però la maggior parte sì, sono conoscenti più che amici. Mm-hmm. Che cosa fai su Facebook? Che cosa ti piace fare? Ma sbircio un po' quelli che sono, diciamo, i gossip del momento, oppure... Come ho fatto io con te. Esatto, oppure pubblico quello che mi sta capitando in questo periodo, quello che sto vivendo, insomma, quella che è la mia passione in realtà. Quello che stai vivendo. L'ultimo tuo post dice... Ho voglia di un dolce. Sei a dieta, Gloria? Eh sì, sono in preparazione. Sì, sì. Sei in preparazione. Poi ci spiegherai perché. Ci fermiamo un istante con una delle canzoni che hai scelto tu. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Sono innamorato della tua forma, ci attraiamo e respingiamo come delle calamite. Sono innamorato del tuo corpo. Queste alcune delle parole di questo brano di Ed Sheeran. Tu, Gloria, sei innamorata del tuo corpo? Assolutamente sì, tantissimo. E ti prende tanto tempo curarti del tuo corpo? La maggior parte della giornata. Perché tu che cosa fai nel tuo tempo libero? E io mi alleno. Sei una bodybuilder, si dice così? Una bikini più che bodybuilder. Bikini? Però sì. Ci spieghi esattamente cosa sia? È uno sport simile a quello che è il bodybuilding, però insomma abbiamo una preparazione muscolare diciamo inferiore, però si tratta più o meno della stessa categoria. Quindi quante volte ti alleni a settimana? Cinque volte per un paio d'ore. E quindi insomma cinque volte a settimana, praticamente quasi tutti i giorni tranne il fine settimana. Poi avrai anche le gare nel fine settimana. Esatto. Immagino. Sì, sì. Fai tante gare? E io ho iniziato quest'anno e devo dire ne ho già fatte due. Tra poco avrò il campionato italiano, quindi questa cosa mi... Ti sta assorbendo sì, molto. Come sei arrivata a questo sport? È uno sport, sì, giusto? Sì, è uno sport e praticamente mi ha fatto nascere questa passione mia zia, che lei è una campionessa di bodybuilding comunque e prepara appunto le bikini. Un giorno, parlando tranquillamente, mi ha proposto di iniziare ad allenarmi esattamente 2 anni fa, e da lì diciamo, hai scoperto che ti piace un sacco. Sì, esatto. Ma ti piace un sacco perché ti piace adesso di più? Ovviamente sei molto muscolosa, anche le immagini che ci sono sulla tua pagina Facebook sono delle tue gare. Ho visto che hai vinto un sacco di premi, sei diventata brava, stai diventando molto brava. Ti piaci quando così muscolosa? Sì, assolutamente. Sì. Cioè, secondo me è proprio un stare bene con se stessi, un piacersi. Cioè, mi piace proprio questa forma che ho adesso. Ovviamente ti stai allenando per potenziarti ancora di più? Sì, assolutamente sì. Ok. Senti, cosa pensano i tuoi genitori di questa tua passione? Approvano tantissimo, anche a loro piace veramente tanto, anche perché, vabbè, mia mamma è proprio appassionata, le piace seguirmi anche nelle gare, prepararmi, infatti lei che mi segue, mi trucca, mi prepara, supporto psicologico. Certo. Mm-hmm. E anche mio papà, perché comunque lui è uno sportivo e quindi approva questa preparazione. Viene il giorno che ti guardi allo specchio e sei diverso da come ti aspettavi. Sì, perché lo specchio è la forma più crudele di verità. Non appari come sei veramente. Vorresti che la tua immagine corrispondesse a chi sei dentro e gli altri, vedendoti, potessero riconoscere subito se sei uno sincero, generoso, simpatico. Invece ci vogliono sempre le parole o i fatti. È necessario dimostrare chi sei. Sarebbe bello doversi limitare a mostrarlo. Sarebbe tutto più semplice. Allora Gloria, ti ho chiesto di indicarmi il tuo libro preferito e mi hai consigliato Bianca come il latte e rossa come il sangue di Alessandro D'Avenia, un libro che amo molto anch'io, quindi mi fa piacere che tu l'abbia scelto. Una bellissima e triste storia d'amore fra un ragazzo e una ragazza che muore di leucemia, quindi una storia molto drammatica. Una ragazza dunque tradita tra l'altro dal proprio corpo. Direi che il filo conduttore del corpo c'è in questa puntata. Esatto. E anche nella tua personalità. Ci avevi fatto caso a questa coincidenza? Sì. Lei bianca, senza capelli, allo specchio che non si riconosce più. Mm-mm. Tu invece allo specchio come ti vedi, come ti senti? Beh, io diciamo che mi piaccio, cioè quando mi guardo allo specchio, no? Vedo una bella immagine di me stessa. Poi comunque in passato non ero proprio così, nel senso ero abbastanza, cioè ero diversa, no? E questo cambiamento che c'è stato in me, cioè mi piace veramente tanto. Ti rende orgogliosa. Sì, è come volevi essere da piccolina, sognavi, esatto, di essere così, esatto. E hai raggiunto questo obiettivo. Sì. È un tuo obiettivo raggiunto questo. Da piccolina, io ho visto le foto, avevi un sorriso bellissimo che peraltro è lo stesso che hai adesso, quello è rimasto, non è cambiato per fortuna. Avevi delle belle guanciottine, eri molto morbida, molto carina. Ti dà fastidio rivedere quelle foto? Non ti piaci quando le rivedi? Quando ero più piccola mi dava molto fastidio riguardarle, infatti ne ho veramente poche, le ho eliminate quasi tutte. Non riuscivo apprezzare quello che ero prima. Quindi ti vedevi brutta? Sì, non mi piacevo proprio, anche in confronto alle altre bambine, come erano le mie compagne. Assolutamente. Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme. I ragazzi del 99. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. I ragazzi del 99. Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre. Quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Sai che ho pensato sempre, quasi continuamente, che non sei mai stata mia. Me lo ricordo sempre, che non è successo niente, dovevi sempre andar via. Io e te, io e te, dentro un bar a bere a ridere. Io e te, io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, io e te, seduti sul divano, parlare del più e del meno. Io e te, io e te, come nelle favole. Anche Vasco Rossi fa il suo ingresso nella nostra trasmissione Ragazzi del 99, grazie a Gloria che è qui con noi oggi. Come lo conosci Vasco Rossi, che insomma è un cantante più della mia generazione che della tua? Mia mamma mi ha fatto ascoltare diverse canzoni da lì. E ti è piaciuto? Sì. A crescere bambini, avere dei bambini la sera sul divano, dice questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Tu come la immagini la tua vita con la tua futura famiglia? Come immagini la tua vita di coppia che sarà? Allora, io la immagino con molti figli, perché mi piace proprio l'immagine della famiglia. Quindi ti vedi mamma intanto? Sì, mi vedo mamma, assolutamente. E vabbè, spero di poter realizzare questa cosa, certo, con quello, naturalmente, dei figli, una famiglia numerosa, mi immagino, nel mio futuro. E come immagini invece il tuo futuro lavorativo? Quindi hai detto ti vedi mamma e vorresti, sperando che tutto vada bene, vorresti diventare mamma, però hai già deciso cosa fare dopo la scuola? Come ti vedi da grande? Quale professione ti piacerebbe fare? Io vorrei fare la nutrizionista, quindi suppongo di continuare gli studi facendo scienza dell'alimentazione. Che comunque quindi anche... è conseguente anche a quello che stai facendo, perché esatto, il tuo studio di adesso comprende anche l'alimentazione, assolutamente, perfetto. Ed è molto congruente anche con quello che fai fuori, tutto un filo conduttore, esatto, perfetto. Quindi mi piacerebbe molto riuscire a realizzare questa cosa. Mm-hmm. Ti vedi in uno studio, ti vedi in uno studio medico, in una palestra? In uno studio medico più che in una palestra, sì, quello lascerei come mia passione, come il fuori lavoro, insomma. Fuori dal lavoro, ok. Ma ti fa paura il futuro? Perché si parla molto, no, di disoccupazione giovanile, di ragazzi che fanno fatica a trovare lavoro. Tu sei preoccupata per questo? Ne parlate con i tuoi amici? Oppure la scelta di diventare nutrizionista ti rende sicura? Ma a me rende sicura. Cioè, secondo me, se hai degli obiettivi, indipendentemente da quella che sia, quello che sia il momento, no, quello che sia la problematica che c'è adesso, riesci a raggiungerli tranquillamente. Quindi non ti preoccupa il futuro, secondo te troverai un lavoro? Sì, secondo me sì. Brava. Dove ti immagini di vivere fra 10 anni? A Milano, in un altro posto? Spagna. Ibiza, sì. Ibiza, perché? Ci sei stata? Ci dovevo andare quest'estate, però purtroppo è saltato e diciamo è la meta che ho puntato. Quindi non la conosci attraverso le fotografie, social, eccetera. Sì. Però quello è il tuo obiettivo, vivere a Ibiza? Sì, mare, spiaggia, sole. Feste? Sì, feste, che però possiamo anche tralasciare come cosa, preferisco mare. Però se devi lavorare. Vabbè, nelle vacanze, nel weekend. Giusto. Ma ti piace viaggiare? Sì, molto. Viaggi? Sì, viaggio. Poi adesso con questa cosa delle gare mi sta portando a viaggiare molto rispetto a prima. Ultimo viaggio? Veneto. Veneto, ok. 2 weekend fa. Alberghi, Airbnb o ostelli? B&B, solitamente. Uh-huh. Cambiamo totalmente argomento. La scuola. Uh-huh. Sì. Cosa rappresenta per te? Ti piace studiare oppure un po' un peso? No, assolutamente, non è un peso, cioè a me piace studiare. Sei brava? Media? Diciamo che sono brava, posso, sì, sono abbastanza brava, devo dire. C'è qualcosa che detesti dei tuoi professori? Ma mi dà fastidio un po' la frase tipica, noi l'abbiamo già fatto, ora tocca a voi. Questo lo detesto proprio. Quasi un senso di rivalsa su di voi. Vabbè, non lo diciamo perché è vero, noi ci siamo già passati, sì, abbiamo però studiato, quindi adesso tocca a voi. Basta con questa lagna, in realtà. Forse è quello, però ti dà fastidio. Ma c'è invece un professore che ti ama, che tu ami particolarmente? C'è la mia professoressa di inglese. Mm-hmm. E anche il mio professore di diritto, assolutamente. Mm-hmm. Entrambi, devo dire, grandissime persone. Che porte ti stanno aprendo? Porte mentali, naturalmente. Vabbè, la mia professoressa di inglese, assolutamente, a viaggiare tantissimo, no? Quindi andare oltre a quello che è il mio confine, la mia città, no? Il mio mondo. Il mio professore di diritto, proprio umanamente, mi sta insegnando tantissime cose, devo dire, veramente una brava persona. E c'è qualcosa che cambieresti nella tua scuola? Sì, io diminuirei le ore al pomeriggio, magari quando siamo fino alle 5, piuttosto che è un po' pesante. Quindi la giornata diventa veramente pesante. Sì. Senta, mi dispiace, ma io non credo che ci sia un'altra vita dopo la morte. Dille che si sbaglia. Dice che sbagli. Le ha parlato in questo istante? Sì, mi ha appena pregato di dirti che sei in errore. E dov'è adesso? Non posso vederlo, posso solo sentirlo. Le siedo accanto. Le sto tenendo la mano. Dice che ti tiene la mano. And time goes by.

I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Se sarai a pezzi ti metterò al riparo dalla furia di questa tempesta. Bella questa frase di Ed Sheeran. A te chi ti rimette insieme i pezzi quando hai qualche delusione? Quando... La mia mamma. La tua mamma. Beate, sì. Le mamme. Esatto. E invece hai un tuo luogo del cuore dove ti senti bene o un oggetto da cui non ti separeresti mai che ti consola anche solo la presenza? Un luogo sì, un posto di mare dai miei nonni. Mm-hmm. Proprio mi... Regione? Campania. È un posto dove ti senti bene? Sì, libera, tranquilla. Ci torni volentieri? Assolutamente, ogni anno. Perché ci sono i nonni o è proprio il posto che ti rassicura? I nonni e il posto anche. Mm-hmm. E invece hai una figura di riferimento fuori dalla famiglia, naturalmente, a cui non ti ispiri ma che tu ammiri particolarmente, magari anche una figura femminile, c'è qualcuno che conosci e che dici io vorrei diventare così? Allora, come persona famosa, la Michelle Hunziker. Michelle Hunziker? Sì. Cosa ti piace di lei? Mi piace... Poi magari è quello che riesco solo a vedere tramite appunto la televisione, il suo modo di fare, di esprimersi. Come ti sembra? Ti sembra una persona... Mi sembra calorosa come persona. È anche molto sicura di sé, no? Sì, è molto sicura di sé, esatto. Ed è anche molto bella. Tu un po' le somigli però, eh? Un po' le somigli. Poi magari. I nostri ascoltatori potranno giudicare perché sul sito possono vedere anche la tua immagine. Secondo me un po' le somigli. Bene. Quindi è lei a cui ti ispiri. Sì. Grazie a Gloria Ricciardi, grazie per essersi raccontata ai nostri microfoni, grazie a Paolo Corleoni per la confezione impeccabile di questo appuntamento. Maria Piera Ceci vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata dei Ragazzi del 99. Anche in questa puntata ci lasciamo ancora con le parole del generale Diaz. Voglio che l'esercito sappia che i nostri giovani fratelli della classe 1899 hanno dimostrato d'essere degni del retaggio di gloria che su essi discese.